Chi è? Io non mi faccio arrivare le notizie che non niente, forte la frequenza. Oi Luca, io sono in macchina, siccome ero da un po' che non stavo modulando e perché in macchina l'avevo dovuto togliere perché dovevo portare la macchina al carrozziere per non lasciare niente dentro, capito? Quindi stavo provando, ho detto vediamo se mi sente qualcuno. Sono stato bene, la grande. Sono Fred Danieta davanti a Vestis adesso alla rotatoria. Alla grande sta arrivando, non so come mi stai ascoltando tu, ma penso bene, dai. Sì, tu sempre forte, solo che avevo il volume basso prima per quello, ho detto non ti avevo riconosciuto alla prima parlata, capito? Poi come ho alzato questo segnale ho detto già è Luca. Eia, ci ho fatto la freddone, guarda. Mi ha fatto la puntura. Qui questo cortisone poi me l'ha fatto passare. Adesso devo buttare a capo. E non so neanche se devo continuare, se. Non so nulla, non so nulla. Se non mi opera questo naso, sono fregato. Ah, se già ti dico, mi prendo anche un occhio che sto anche a mal di fronte. Oggi è proprio guardo la giugata di fare dietro. 0-0, riporto 0. Ma cos'hai beccato? Virus influenzale? No. Io ho dei polipi, capito, del naso da levare. Da mettere a posto praticamente, no? Solo che sono in lista d'attesa. Ci vogliono dei 2-3 anni per fare questa cosa. Non la prendo in considerazione subito. Per carità, va. Ho capito il problema, l'operazione l'ha fatta qualche mese fa un mio collega e lo stesso anche lui era in lista d'attesa da un po' di tempo perché respirava sempre male, aveva sempre problemi eccetera e l'hanno ricoverato penso un paio di giorni e ti ricoverano e, però poi risulti e stai decisamente meglio. Carlo, lo farei domani che domani. Io sono anni e anni così, non è peggiorando, capito? Andate peggiorando, vabbè, pazienza, se più tardi vado lì a prendermi le pizze da Putin, che pensavo che ricevo due pizzette, adesso mi faccio un bel tazzo di latte caldo col miele e fammi delle pizzette. Lo credo. Io niente, mi sono in giro perché dovevo prendere un raccordo perché a casa di mia suocera mia moglie è andata, dice non c'è acqua e invece qualcuno deve aver chiuso il rubinetto giù dalla strada, capito? C'era la cassetta, no? Qualcuno ha aperto, gli ha chiuso l'acqua perché praticamente il rubinetto che c'era nel terrazzo si è, non lo so, forse il freddo come ha gelato, deve essere successo qualcosa e praticamente si è spaccato e quindi scendeva l'acqua dal terrazzo, poi al tubo di gronda qualcuno ha visto che scendeva l'acqua e non aveva il numero di telefono a chiamarci e ha fatto così, ha aperto il contattore, ci ha chiuso l'acqua e quindi ci sono andato io questa settimana a vedere e praticamente si è rotto quel raccordo che dove è abitato il rubinetto, completamente spaccato da solo, secondo me il ghiaccio, perché a Bonorra fa anche freddo, la mattina scende anche sotto zero a volte e probabilmente si è formato del ghiaccio, come ha dilatato, spaccato il raccordo e quindi ero da Brickoman, capito? Già l'ho trovato identico a quello che c'è, quindi non faccio altro che togliere quello, di preso e buonanotte, e ho finito. Niente, adesso passo da Media World per vedere un telefonino, perché quello di mio figlio praticamente è impazzito, non riconosce più la SIM card, telefono vecchio Samsung, adesso vedo cosa c'è in offerta e vedo un po'. Guarda che c'è, va, non molto loppo, se tuo figlio non è di quelli... che pretende troppo, c'è l'oppo, che non costa molto, è un bel telefono, poi glielo compri quello da 160, ma 128 giga, come il viola. Non capire Samsung. Sono buoni, sono abbastanza fluidi, ecco. Praticamente a quanto capito la sottomarca del Samsung, caro. E non spendi molto, tanto un attimino che stavo sistemando il mio letto, se non me lo faccio io, rimane sconcio. Infatti, anche io in questi giorni sono solo perché mia moglie è a Roma con mio figlio, capito? E rientrano domenica e quindi da ieri sono solo. Però le rotture di scatole ti arrivano lo stesso, capito? Perché ti chiama, ma questo telefono è impazzito, non funziona più, non dice inserire la SIM, lo spengo, lo riaccendo, funziona 5 minuti e poi ha detto è vecchio, io glielo ho detto, gli stava creando problemi da un po' di tempo, non si aggiornava più, molte applicazioni non gli dice che il telefono non le supporta, capito? C'è la roba di 7 anni quel telefono e quando era uscito da 2-3 anni prima, per cui fate il conto, un telefono di 10 anni fa Samsung e quindi è vecchio, adesso guardo solo, vedo un po' cosa c'è, ma poi quando rientra lui viene, se lo sceglie lui, capito? No, non è che ha molte pretese, per lui basta che funzioni internet, i social, insomma, quelle cose là, e un po' di memoria perché scaricano un sacco di roba, foto, eccetera, e quindi prenderò qualcosa che abbia anche una buona memoria, capito? Vedo un po' cosa c'è. Scusate, sto uscendo dal radio? Carlo, scusate, sto uscendo dal radio? Ciao Giulio, sì, perfetto Giulio, come al solito, perfetto. Ok, grazie, continuate. Ma Giulio, l'hai ascoltato Carlo? No, non l'ho sentito, forse avevo lo squelcio perché ti ripeto, l'ho piazzato poco fa qua la radio, no? E quindi avevo sia il volume e ho toccato lo squelcio, ce l'avevo molto alto, tu mi arrivavi ma quello che c'era sotto non lo sentivo. Buonasera Giulio, se ci sei dovrei arrivarti, sono nel piazzale dove c'è il rifornitore da Città Mercato, diciamo, lì parcheggiato. Ok Carlo. No, volevo solo sapere se stavo uscendo, perché ho fatto uno spinotto, dai, grazie, scusate, continuate pure, ciao Carlo, ciao Luca. Ciao Giulio, sì, forte e chiaro qua, prima avevo lo squelce a manetta, capito, tutto sollevato, e quindi è per quello, però stai arrivando molto bene, forte e chiaro qua. Niente, io scendo adesso un attimo Luca e nel caso ci sentiamo più tardi. Un caro saluto Giulio, se coincide dopo, se riesco a collegare tutto a casa, magari ci sentiamo con calma più tardi. Ciao Luca e Giulio, a più tardi. Ciao Carlo, grazie ancora. No, io ho da fare, mi interessava solo sapere se stavo uscendo perché ho fatto uno spinotto, tutto lì, una prolunga in poche parole. Grazie ancora, ciao Carlo, ciao Luca, ci sentiamo, ciao. Sì, ciao Giulio, ciao Carlo, a dopo. Ciao. Mio hermano Zavasco, si avviso della Sardinia adelante. Stai uscendo tutto ai dischi, non so chi sia. Guarda, non sì. Chi sei, Natalino? Eia, ti copro la voce. Ciao Gianni. Buonasera, come andiamo? E chi è quello che sta uscendo male, Gianni? Mi è sembrato Natalino, E anche io lo sentivo molto male, non si capiva niente. Vabbè, a posto l'apparecchio. No, negativo, niente da fare. No, non si può aggiustare, praticamente si è bruciato. E il fatto che accendeva a sbalzi, non gliel'hai detto? Sì, gliel'ho detto, però poi non si è acceso più. Boh, che cos'è strano, a me mi era capitato un Alan 48 così. L'ho comprato nuovo, vado ad accenderlo, non accendeva più, di colpo, senza toccarlo, senza fare. Niente, il problema è che me lo sarei anche ricomprato, l'avrei tenuto per pezzi di ricambio, che ne so, il microfono, qualche manopolina, eccetera. E il problema è che, diciamo, la Alan, diciamo, non lo sta producendo più, capito? dice che ha difficoltà a reperire i pezzi e quindi non si trova. Ah, che fregatura. Vabbè dai, del resto a volte ti va bene, a volte ti può andare male, quasi un paio d'anni l'ho avuto e diciamo la garanzia è anche scaduta, se no magari rientravo nella garanzia, sempre che però il danno, cioè se è causato da fattori esterni, capito, non ti danno niente, allora pazienza, dai, me ne prenderò un altro. Stavo guardando quello CRT SS 9009. Quello lì ce l'ha, pensa a Marco, ce l'ha Marco Condor. E più o meno come caratteristiche sono quasi identiche, dai, qualcosina in più ha quello CRT. Vabbè, vedi un po', dai, magari sarai più fortunato, come diceva quello. Vediamo un po', Natalino. E Natalino li saranno sicuramente problemi con le baby più 4, più 5 che c'ha, perché stava fischiando da ieri e l'aveva detto, infatti ha cambiato apparato perché fischiava. Ho capito, no, ma era incomprensibile proprio, non riuscivo, cioè ho acceso, perché sono in giro in macchina, ero a Città Mercato, prima c'era Luca e Giulio, e poi sono dovuto scendere, dovevo fare delle cosette, e niente, adesso acceso, ho sentito a te che parlavi, ti ha risposto, però non l'ho nemmeno riconosciuto che fosse Natalino, ma se è un problema di microfono già si risolve facilmente. Dice che le ha preso così, da ieri dice che le ha preso a fischiare, buh. Io fra poco devo andare a portare giù il cane alle 7. Mi sono attaccato adesso perché mi stavo seguendo su internet, c'era i pezzi della corrida, ma mi stavo pisciando dalle risate. E io lo stesso, oggi, ieri e domani, dopodomani sono solo soletto, quindi mi sono un po' anche io guardato un po' di TV sino a tardi. Oggi sono di riposo e domani rientro di pomeriggio, per cui ero in girella da solo, si sta così bene quando sei solo, ogni tanto ci vuole. Sì, un po' di libertà, si respira, dai. E vabbè, non per tanto, perché poi soffri di solitudine. Gianni, uscendo sto? Sì, adesso sì, Natalì. C'era qualcosa che non andava nel microfono, là. L'ho immaginato, perché da ieri ti sei lamentato che fischiava. Vabbè, cosa era? Ah, la prolunga era. Ah, ho capito. Toccava qualche filo. No, negativo, l'ho messa lontano da dove era e adesso non ne esca più. E allora faceva il rientro, va, cappa, mica è entrato Carlo, vai, saluta. Ciao Carlo, già ti ho sentito, è che volevo sapere se stavo innescando, capito, che mi facevano un innesco. No, adesso va bene, Carlo, sto provando un microfono, che gli ho cambiato la capsula e vabbè, gli ho fatto diverse modifiche io. Come sta andando? Carlos, avanti. Ho fatto un interrogativo, ho detto che questo microfono che sto usando, gli ho cambiato la capsula e gli ho fatto qualche lavoretto io, dai, il cavo eccetera. Come sta andando questo microfono? Guarda, sembri seduto qua a fianco a me, va bene che sono vicino adesso, sono alla rotatoria del poligono, dai, in quella zona lì, quindi siamo anche abbastanza vicini, ma ti sento proprio, diciamo, la voce tua è chiara, limpida e forte. K, va bene, dai, è una capsula che ci avevo, non mi ricordo manco se era di USA Delta, di qualche altro microfono, ne ho ancora qualcuna, dai. Voglio fare poi un'altra prova, mettere una capsula, però lo farò più in là, la capsula di un Turner e un microfono normale. Vuole alimentata quella, se no non funziona. Arrivando. Perfetto, 9:30. e ha voglia. Natalia, a te come ti arrivo dalle tue parti? Bene, bene, carissimo. Gianni, quella del tunnel vuole alimentata, se no non funziona. Ah, così è. E allora? Allora posso mettere solo un microfono amplificato, va. Infatti, perché vuole alimentata quella capsula. Gaba gaba, va bene, si può mettere nelle baby più 4, eh? Quello sì. Si può provare, va. Provala a vedere. E avanti. Sempre Carlo, ascolta, hai detto che il CRT, quello SS 9009, c'era Marco Condor? Sì, mi sa di sì. Al limite, se mi capita, chiedo a lui come fa. Infatti. Chiedi, ma mi sa che sono tutti soddisfatti di quell'apparecchio, dai, a quanto ho sentito. C'erano un po' di persone. Non mi ricordo se ce l'aveva anche, come si chiama, Tino, Tino Muscolo. No, 9009, eppure è complicato a quanto mi ha detto Marco. Da usare è un bel complicato. Vabbè, Marco già lo sa usare. Natali, non ci vorrà la laurea in ingegneria, no? Dai, già. Quello che chiamo il buio non era lo stesso neanche il semplice, però capito, più o meno le caratteristiche sono quelle. Poi una volta che tu gli dai le caratteristiche che vuoi tu, lo lasci così, non è che stai sempre a toccarlo. Sì, perché ogni tasto c'ha tre funzioni, è tutto pieno di menu, sottomenu, e per quello è un bel complicato, mi ha detto Marco. Vabbè, l'importante è che funzioni bene, poi usandolo magari si impara tutto piano piano. Vabbè, parlane con Marco. Ci sono anche le istruzioni, no? Basta leggere. Ma sono in inglese sicuramente. Ma sulla rete sicuramente adesso cerco e guardo se le vedo se le trovo in italiano di quell'apparecchio lì, e magari anche più semplice poi. Se sono in inglese piano piano già lo traduciamo. Vado alle recensioni a vedere cosa dicono. No, è buono come apparecchio. Sembra un apparecchio HF quando esci. Molto viene a costare. Carlo. È più o meno intorno ai 300 euro, 290, 280, dipende dai siti, capito? Ma se ne trovano anche di seconda mano, però bisogna vedere se li hanno manomessi o meno, capito? È quello, Ne ho visto uno su eBay a 140 e il venditore è un negozio che ripara radio, perché ho controllato, quindi molto probabilmente aveva qualcosa, l'ha messa a posto e lo sta rivendendo. Bisogna avere sempre il funzionamento, Carlo, quando è nuovo, c'è poco da fare. Ma io sono più propenso a prenderlo nuovo e così non ho problemi, diciamo, chi l'ha toccato, chi non l'ha toccato, capito? Chissà che mi duri di più dell'altro. Sì, dai. Con questi circuiti che fanno adesso è un casino. Forse lui non ci ha potuto mettere mano perché ci sono dei microcircuiti e se non ci sai lavorare ci vogliono attrezzature particolari, piccole, per arrivare, saldature ad aria calda, tutte queste cose qua. Magari lui non ce l'aveva questa attrezzatura. Perché me l'ha detto, dice, sono molto complicato. Sicuramente si è bruciata una scheda che praticamente la grande è quella che c'è sotto, dice, c'è un'altra scheda lì e sicuramente tutta quella componentistica che ha è andata, e quindi dice bisogna reperirla presso la casa madre, ma già la casa madre ti dice che quella là è più in produzione per mancanza di figure che si trova una perdita di tempo e basta, capito? Poi magari prendi il pezzo, non ti funziona bene, a questo punto ne prenderò un'altra nuova, capito? E ciccia. Per adesso mi sto aggiustando con questo in macchina, lo stacco, a volte lo metto a casa, ma anche a casa ho dovuto scollegare. collegare l'antenna, perché con i lavori mi hanno chiesto se potevo togliere il cavo, se no si poteva rovinare, quindi sono senza niente. Bene bene, io sono quasi arrivato a casa, sono davanti al bowling adesso, e tra un attimo arrivo a casa, quindi stacco tutto e non so se riesco a fare un collegamento da casa o meno, magari in condizioni con la base magnetica o qualcos'altro, dai. Ci sentiamo Gianni, ciao Natalino, alle prossime, mi ha fatto piacere risentirci, eravamo da un po' di tempo che avevo qualche problemino, ce la risentiamo in condizioni migliori mi auguro, ciao e buona serata. Carlo, ciao, stavi bene, dai, ci ha fatto piacere sentirti, dai, sto chiudendo anch'io che devo portare il cane, magari riprendo poi dalla macchina quando scendo giù, ok Natali, ci sentiamo, vado a prepararmi che devo portare giù il cane, che poi devo andare a prendere aereo. E vabbè, già sono in ascolto, intanto fra un po' mangio io, e così se entri già ti rispondo, dai, già è acceso. Ciao Carlo, se mi stai ascoltando, buon proseguo. Ciao Natali, certo, sono sotto casa adesso, mi sono passeggiato. Ciao ciao Carlo. Hola, hola. Attenzione, binario 10, c'è qualcuno, cambio. Attenzione, canale 10, cambio. Dove finire di rompere i coglioni, eh? Attenzione Lucrezia, ci sei? Attenzione binario 10, gabbia, ora, che perché è bella? È andato più uno, evita di rompere i coglioni, vuoi parlare con uno? Ma cosa sei, cotto sì? Attento Lucrezia Borgia. Luca, ma ci vai via Bugino stasera? Sogarie! Attenzione, canale 10, cambio. Vabbè Gianni. Ho detto, non ci vai stasera via Bugino. No. Sono super raffreddato già, ui. È in casa mia figliuccia. E chi è tua figliuccia? Sarafino. Sta figliuccia? Cazzo. Non lo sapevi? No. Ma che si matta? Babà. Ambulance. Ma che si matta già? Cosa? Ma che si matta? Mattezzata. Che mattezzata, scusa, ho capito. Cavolo. La cosa sa la buia. Pazza, Oggi già la conosco, la prima ragazza di Infant. Ma cosa fa lei? Karaoke fa? Freia, la manata la cosa, se deve andare. No, non ci devo andare, sto chiedendo se andavi tu. Perché c'è su internet il cartello che canta, capito? Sì, aspetta già che devo uscire da casa, devo fare le palline a mamma. Tarantellino mi ha detto di attaccare che rispondeva e poi non risponde. Boh. Lupi! Hola, attenzione, canale 10, c'è qualcuno, cambio. Sì, Q canale 10, cambio. Ora. Nuove tecniche di trasmissione, cambio. Attenzione, binario 10, cambio.